Il dono. Dove siamo? Domandò André. Sulla Terra, rispose Gabriel. Passeggiavano attraversando diverse porte, lo spazio luminoso simile ad una mandorla che Andrea aveva scoperto con Raphael, passando in situazioni sempre diverse. Campi coltivati, deserti, boschi. Per André fu un'immersione nella bellezza della natura, gli animali lo commossero, gli piaceva pure la frenesia delle città affollate, l'arte, la musica, lo sport, provò ad unirsi ai bambini che giocavano a pallone in un parco di una città, ma Gabriel lo fermò rivelando che loro non potevano vederlo. Le emozioni di André però cambiarono bruscamente. Fu un vero schiaffo improvviso. Si ritrovarono a camminare negli allevamenti degli animali che lo disturbarono parecchio, poi una serie di territori desolanti, aridi, bruciati, poi slam abitati da povera gente che non aveva niente. Tutta quella sofferenza turbò André che si intristì sempre più. Ogni tanto voltava lo sguardo verso Gabriel, come per chiedere spiegazioni. Ma Gabriel sembrava indifferente. Continuava a camminare con calma, fermo, saldo, imperterrito, imperturbabile. André rimase atterrito quando vide campi di prigionia, uomini e donne ridotte a scheletri, cadaveri abbandonati in strada bruciati, oltraggiati. Attraversarono città ridotte in macerie, con gli echi dei bombardamenti che fecero fischiare le orecchie di André, che continuava a guardare Gabriel sperando in una spiegazione che non arrivava mai. Gabriel, dopo avergli mostrato la bellezza del pianeta dove avrebbe vissuto, lo stava spingendo a sopportare l'insopportabile, ma continuava a non dire niente, sempre altero come se niente lo riguardasse, niente lo commuovesse, niente lo toccasse. Passarono ancora attraverso la porta e si ritrovarono su una spiaggia. Gabriel diede uno sguardo veloce ad Andrea senza che lui se ne accorgesse. Lo vide più tranquillo, il mare azzurro, il sole caldo, la brezza, il profumo di salsedine lo aveva confortato. Poi dal nulla sbucò un gatto. Un bel gatto rossiccio che camminava sul bagnasciuga. Gabriel guardò André e lo vide impallidire, il gatto camminava trascinandosi sulle due zampette anteriori perché quelle posteriori erano ferite, forse prese da una tagliola. Come se il suo stato di sopportazione fosse arrivato al culmine, André scoppiò in un pianto disperato, si lanciò verso il gatto, ma Gabriel lo trattenne fra le sue braccia. Piangeva a dirotto poverino. Perché tanta sofferenza? Strillò André. Gabriel non rispose, lo strinse forte e lo lasciò piangere, singhiozzi su singhiozzi. «Ma tu non piangi mai?» gli strillò André, «non te ne importa niente?» Gabriel invitò André a sedersi con lui sulla sabbia, di fronte al mare. «C'è una guerra», gli rispose Gabriel, «prima le cose non erano così, non c'era sofferenza, non c'erano separazioni», si interruppe, rimase in silenzio per un attimo poi con tono perentorio gli chiese, «vuoi aiutarci a far tornare le cose come un tempo?» André annuì singhiozzando. «Domani partirai», gli disse Gabriel, «ti porterò nella piscina che hai visto con Raphael, così arriverai qui sul tuo pianeta, troverai i tuoi genitori e vivrai la tua vita, poi», aggiunse posando il dito indice sul cuore di André, «dovrai cantare». «Mi piace cantare», sorrise André. «Quando canterai il tuo canto arriverà a noi, e da noi si espanderà in cielo e in terra, poi altri canteranno con te, il tuo canto formerà una rete di persone, pensieri e anime che ci permetterà di tornare. Solo allora la guerra sarà davvero vinta». Andrea era confuso, mille pensieri si affollavano nella sua mente ascoltando le parole di Gabriel, bastava cantare per eliminare tutto il male che aveva visto? Ma pochi istanti dopo capì che quelle parole non erano solo chiarificatrici di una condizione, erano ordini, Andrea aveva un dono e lo doveva usare. «E tu dove sarai? Non ti vedrò più?» chiese Andrea. «Mi vedrai nei sogni. Rivedrai me, ma anche gli altri che hai conosciuto prima di partire». André si appoggiò a Gabriel che lo cinse con un braccio. Poco dopo l'attenzione di André fu richiamata dalla comparsa di un bellissimo cavallo bianco, di una bianco splendente quasi fiammeggiante. Gabriel mise André sulla groppa del cavallo e passeggiarono sul bagnasciuga. Senza più pensieri, senza malinconie, finché non attraversarono l'ultima porta. André si ritrovò seduto a cavalcioni sulle spalle di Gabriel, davanti ad una delle grandi vetrate dell'astronave dove vivevamo da tempo, nascosta su Amaltea, un satellite di Giove.